Allora, due parole sull'assemblea pubblica verso il corteo del 5 marzo. Allora, il 5 marzo si farà un'assemblea pubblica dove si parlerà dei temi che quest'anno accompagnano la memoria di Max. L'assemblea pubblica si farà al Parco di Vetra, dove c'è il campetto da basket. Diciamo che tutte le realtà milanesi o tutte le realtà che vogliono fare degli interventi parleranno e declineranno il tema del lavoro, della morte sul lavoro, dei ragazzi che sono morti in alternanza scuola-lavoro, di tutto quello che è della questione delle donne e dei posti di lavoro, piuttosto che degli stipendi, della disparità. Quindi verranno un po' declinate in vari modi la tematica sul lavoro, sì, la tematica sul lavoro che quest'anno accompagna il ricordo e la memoria di Dax. Ok, e questo è il 19° anno in cui si commemora Dax e ci sarà il corteo il 16 marzo. E dicevi prima appunto che l'assemblea che chiama questa iniziativa è un po' cambiata quest'anno, cioè nel senso non c'è più la presenza dell'associazione Dax, è come se c'è stato un tralasciare, no? Un Sì, passaggio di mano in quel senso. l'associazione Dax ha fatto un comunicato dove dice che si occuperà solo del presidio in brioschi davanti al bar, al pub Tipota, dove Dax è stato ucciso. E quindi si terrà l'impegno di fare la parte del ricordo e tutto il resto viene, diciamo, lasciato come, appunto, come testimone alla città. E quest'anno, appunto, è stata accolta da un'assemblea dove hanno partecipato praticamente tutte le sigle, tutti i collettivi, tutte le soggettività che sono presenti sul territorio milanese, e si è deciso, appunto, di fare un corteo che partirà appena dopo il presidio in Brioschi. Il presidio sarà alle 20. Ci saranno degli interventi, ci sarà la visione del video, ci saranno alcuni contenuti, sempre rispetto al lavoro. E poi alle 20, 21 e 30 più o meno partirà il corteo appena dopo il presidio. Ok, perfetto. Allora volevo farti un'ultima domanda, oltre quindi all'assemblea pubblica di questo sabato e corteo del 16, ci sono poi altre iniziative di avvicinamento o comunque collaterali che vanno un po' a terminare quello che è il percorso di quest'anno dell'assemblea Dax, che però probabilmente non terminerà del tutto perché si va verso la costruzione ventennale. E quindi volevo chiederti se avevi voglia di dirci tu delle date di iniziative che ritieni comunque Sì, importanti e interessanti. il 5 marzo si farà l'assemblea in vetra, dove si parlerà, appunto, anche poi di come iniziare già a prepararsi per l'anno prossimo, che sarà il ventennale, quindi sarà una data numero cifra tonda e tante volte sono magari considerate più importanti. Poi ci sarà l'11 in Baraonda un concerto che sarà Benefit 130.000. Il 12 e il 13 a Zam c'è l'Antifa Fest, dove si faranno dei tavoli di lavoro sull'antifascismo oggi, delle riflessioni. Il 16 poi ci sarà il corteo. Il 19 come Sharp facciamo un concerto sempre Benefit per 130.000 con prodotti locali, Nabat e Shots in the Dark da Roma. Il 26 chiudiamo, diciamo, sempre con la Sharp, però al Bar Onda, mentre il primo concerto lo facciamo alla Fornace, il secondo al Bar Onda, e con One Droppers e Ostile. Quindi facciamo sempre un po' di ska e un po' di oi, così da accontentare un po' tutti, e facciamo, diciamo, tutte le iniziative saranno ben per la campagna 130.000.